No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa. Sera. Buonasera. Buonasera. Siamo le Rivelli, stiamo ascoltando Ni Una Menos di Chocolat Remix. La nostra sigla. Esattamente, che spacca sempre, mi piace un sacco, davvero tanto. Dà un sacco di carica. Esatto, stasera abbiamo un argomento ben specifico, come tutte le altre domeniche e quelle future. Solo di cosa parleremo? Un po' scottante perché parleremo dell'autoerotismo e i sex toys. Bene, allora ci divertiremo molto e adesso finiamo di ascoltare questa fantastica sigla e a tra pochissimo. A tra poco. Ni una menos, cabrón, ni una menos. Come promesso, siamo di nuovo qui. Eccoci. Allora, devo dire che questo è un pomeriggio davvero molto caldo qua a Milano. Direi un sole domenicale tipico di dicembre. Soprattutto. Esatto. Fa un caldo pazzesco e piovono raggi di sole. Hai detto proprio bene, piovono raggi di sole. Anche qui in studio ci sono un sacco di raggi di sole. Beh, ma noi siamo raggi di sole. Certo. Madonna. E siamo i vostri raggi di sole. Allora, per commentare questa pessima battuta che abbiamo fatto, potete scriverci alla chat Telegram, che adesso ricordo essere chiocciola radiozam_chat. Oppure sul nostro canale Instagram le_ribelli_zam. Esatto, ricordiamo anche che sarà possibile seguirci e scrivere anche alla pagina Facebook della radio, che è Radio Zammi Sud. E per ascoltare i podcast, il sito di Zam, che è www.zam-milano.it, oppure sul nostro la nostra pagina su Archive di Radio Z-AM. Perfetto, quindi avete tutti gli strumenti per insultarci un po' o sì, se volete anche interagire con noi, e interagire con noi, giustamente. Perché oggi sarà, oggi rubiamo di nuovo un po' da Zona Rossa. Ai ai ai. Che ricordiamo essere un programma della radio. Esatto, che va in onda il mercoledì alle 18. Sì. E l'altra volta ci hanno un po' insultati e insultate, ma amichevolmente. Ma anche io ho insultato loro. Esatto. Quindi diciamo che si può prendere, ci si può contaminare a vicenda, sì, e prendere il buono che c'è negli ci altri sono programmi. Queste bellissime sinergie. Che bella parola, sinergie. Assolutamente. Vero? Ok, allora Andrea, come la iniziamo questa puntata? Allora, sì, noi oggi vogliamo parlare appunto dei sex toys e dell'autoerotismo, ovvero sappiamo tutti che lo facciamo tutti, ok? Okay. Rompiamo questo tabù e rompiamo il ghiaccio e ammettiamo che tutti ci masturbiamo. Esatto. Ok. E ovviamente hanno inventato degli strumenti fantastici che ci possono aiutare a raggiungere degli orgasmi fantastici anche da soli o in compagnia. E in realtà tu lo sapevi, Gioia, che il vibratore è il nono elettrodomestico stato inventato? Lo sapevi? Mamma mia, ma proprio elettrodomestico veniva chiamato. Elettrodomestico che ti portava al parossismo isterico. Ma tra l'altro io sapevo anche, perché ho letto che, ovviamente a me piace ricordarlo tutte le volte che vengo in radio e non solo, di aver letto, perché probabilmente è l'unico libro che ho letto, penso, chi ci ascolta. Nella storia. Chi lo sa, esatto, chi lo sa se è vero, però ho letto un libro che si chiama Storia di V, biografia del sesso femminile, adesso non ricordo l'autrice, mannaggia, però è una biologa che in questo libro racconta tutta la storia, proprio la storia della vagina, e verso la fine del libro, quando quindi si approccia più alla contemporaneità, diciamo che si affronta anche questo punto di vista, cioè non è un punto di vista, questa questione dei sex toys, o meglio dei primi vibratori, che io non lo sapevo assolutamente, ma inizialmente la Chiesa appoggiava i vibratori, appoggiava sì. gli orgasmi femminili delle donne, proprio perché pensava ci fosse una correlazione anche con il concepimento, no? E quindi favoriva, diceva, alle sì, coppie. Sì, in proprio. Realtà era visto come una... sia appunto come una forma di per raggiungere appunto più facilmente il concepimento, e poi successivamente, visto che la classica donna isterica, appunto l'isteria era una malattia e poteva colpire in qualsiasi ambito della vita, tanto lo sappiamo tutti che a livello storico la donna aveva questa malattia che era l'isteria, e veniva curata andando a farsi masturbare. È vero, è vero. Ok. Da questi grandissimi dottori. Che avevano delle mani magiche e andavano a stimolare la clitoride per appunto dare sollievi, appunto avevano questi parossismi isterici, ovvero appunto quando tu raggiungevi l'orgasmo era appunto la liberazione, la distensione di tutti i muscoli, quindi dandoti piacere, e i primi vibratori sono nati proprio per le signore di alto rango che volevano praticare questa pratica, appunto questa cura nelle proprie pareti di casa. Beh dai, però io lo farei, mi farei diagnosticare un po' di isteria. Ma volentieri. Veramente. A proposito, volevo leggervi un articolo. Io intanto provo a fare i magici tappeti di Giulia. Dai, sì. Ci provo, ma non posso garantire. Salutiamo tutte le ribelli anche e... un grande abbraccio a Lady J che doveva essere qua con noi oggi. Intanto dateci feedback se funziona questo tappeto. Forse sì. Ma... vabbè, dai. Va bene? Ok. Va bene così. Allora, vi leggo questo articolo di Marie Claire, ok? Le donne sono isteriche quando non hanno orgasmi. Mette tra parentesi veri. Le donne vanno curate, devono andare dal medico, stirare di meno e godere di più. Un film, pochi anni fa, Isteria, del 2011, aveva raccontato il sottobosco rudimentale, metallico, elettronico, poi della masturbazione femminile. Scelta che può portare a crisi di coppie profonde, quando a cambi ripentini di costume, che in questi giorni compie un secolo di godimenti segreti. Il libro che racconta come è nato il vibratore moderno è un piccolo monumento sulle donne e per le donne. Per quanto a tratti possa sembrare profondamente misogino, The Technology of Orgasm, Hysteria, The Vibrator and Woman's Satisfaction, scritto da Rachel Mines, e dice appunto che ci sono pochissime copie di questo libro. Un libro caso perché, come riportato saggiamente da Betty Squires di Broadley, il primo elettrodomestico ad avere una versione elettrica fu la macchina da cucire, certo, ma il nono è stato il vibratore, 10 anni prima del ferro da stiro. In passato le donne si vergognavano meno di masturbarsi rispetto a oggi. Semplice. La loro forma di masturbazione era definita isteria, e quando si era isteriche si andava o si veniva portate dal medico che stimolava il clitoride, clitoride come cura palliativa allo stress, secondo le operose ricerche raccolte dalla Mines. Il saggio è davvero bello perché racconta una lettura anatomica lontana dall'Atlante anatomico. Ma attenzione, guai a parlare di libertà del tempo libero, compreso di masturbazione delle massaie, oggi come 100 e passa anni fa. I cliché sul sesso di ieri non sono svaniti del tutto. Basta scorrere l'evoluzione di uno strumento che rilassava le parti intime femminili, che bon ton lessicale, per accorgersi che lo strumento in sé è cambiato. Le forme si sono addolcite, tanto da diventare app iperattive per coppie in crisi da orgasmo, ma l'iter è stato troppo lungo e non ancora liberalizzato. Ancora a metà Novecento, le donne più libere e ricche si potevano permettere sì il vibromassaggiatore casalingo, ma lo usavano nella loro intimità come forma di relax e per nulla come strumento erotico, figurarsi di coppia. Il fatto che il vibratore sia stato brevettato prima dell'aspirapolvere la dice lunghissima sull'effetto di quei massaggi medici, una forma di massaggio finto thai che oggi ricordano la metà delle vetrine urbane. Orgasmi clitoridei quali cure per una malattia chiamata isteria da rivoluzione industriale, isteria post-gravidanza e isteria pre-ciclo mestruale. La giornalista di Broadly racconta che anche il medico inglese Ellis nel 1913 scrisse un saggio emoscientifico, The Sexual Impulse in Women, dove indicava che la percentuale di donne che soffriva di isteria era del 75%. Se una donna si accaldava e gemeva durante il massaggio anti-isteria, si diceva che stava subendo un parossismo isterico, scrive ancora l'autrice. La penetrazione non era contemplata, ma la clitoride veniva trattata come un muscolo incrociato del collo. L'isteria delle donne, per la quale è stato inventato il vibratore, era alla base anche di rapporti saffici non dichiarati. Le ricche donne dell'Ottocento si facevano massaggiare la clitoride dalle dame di compagnia e vivevano l'equitazione quale sport distensivo, sella a contatto con la clitoride inclusa. L'importante del saggio della Mines è stato nella scoperta del piacere femminile quanto nella percezione delle esigenze femminili da parte dei medici, per il 99% maschi. Il ginecologo di fine 800 consigliava docce pelviche, getti d'acqua puntati sulla clitoride e installare anche delle stazioni termali europee e statunitensi, sì, l'equivalente odierno dello spruzzino regolabile del bidet. L'effetto finale, riporta la Bradley, piacevole come aver bevuto un bicchiere di champagne. Il vibratore di oggi è un miracolo del design minimale e intuitivo. No, come tutto il design è il risultato di una storia lunghissima, con qualche incidente di percorso. Dopo i medici che curavano manualmente, l'isteria femminile si è passati ai vibratori ad acqua, ovvero andavano a mulini ad acqua collegati al lavandino. Dopo tanti tentativi con file ingarbugliati e poi eureka, le pile, il primo medico inventore ad aver creato il vibratore più simile a quello odierno fu Granville nel 1883 e fu anche il primo a dichiarare che il re era nudo e che per questo non voleva affatto distribuirlo. Le donne fingono di avere l'isteria pur di avere un orgasmo. Ops, questo era l'articolo. L'ho trovato molto simpatico, sì. Però ci fa capire tante cose, quanto alla fine la necessità di piacere era appunto è storica e poi in realtà qua si parla soltanto della ricerca del piacere femminile, perché era trattato appunto come una malattia e un disturbo. Però poi appunto tutto si è ampliato perché il piacere era considerato un pochino meno da nascondere, un qualcosa da dover nascondere rispetto ad oggi, ed è incredibile in realtà. Sì, è un po' un paradosso, sembra un po' strano, sì. Però è chiaro che attorno al piacere femminile, cioè si intersecano una serie di stereotipi, di immaginari, di scenari che in realtà sono molto retrogradi e che tuttora, con cui tuttora noi dobbiamo fare i conti, perché appunto, come dicevi te all'inizio, parlare di piacere femminile è difficile, non impossibile, magari, ma sicuramente difficile, anche se basta pensare anche ai rapporti che si hanno oggigiorno. Io trovo che sia sempre difficile trovare una persona che sia interessata davvero il tuo piacere e che faccia ciò che è possibile fare per darlo. E forse alcuni uomini ancora sono più abituati a cercare solamente il proprio piacere. C'è una bellissima scena che mi viene in mente, che è un'immagine secondo me perfetta. C'è una serie su Netflix che si chiama Big Mouth, un cartone animato. La conosco, sì. Ok, che secondo me in realtà ha degli buoni spunti educativi dal punto di vista appunto dell'educazione sessuale alle medie, tendenzialmente, perché quella è l'età. E appunto è molto divertente quando dicono, le donne si eccitano, le femmine si eccitano e a tutti esplode la testa, perché appunto sembra questa cosa assolutamente sconosciuta, e dici, veramente, hanno una sessualità anche loro. Perché evidentemente la sessualità fino a questo momento è sempre stata nascosta e repressa anche, no? Quella femminile, ovviamente. Sì. Quasi come se la donna dovesse semplicemente essere usata per il piacere maschile. Oppure più che altro indirizzata a prettamente un'evoluzione naturalistica, mettiamo, passatemi il termine, nel senso di la società vuole che noi ci fermiamo all'atto di riproduzione, certo. Quindi il piacere è messo... Non ci serve. Okay. Però noi abbiamo un fantastico organo, la clitoride, che serve solo a quello, a godere. quindi diciamo che adesso devo smettere di dire diciamo, però possiamo adesso mettere una canzone. E poi vedrete, sorpresa. Scoprirete. E questa era Kiss, canzone uscita nel 1986 dei Prince and Revolution, scelta da Lady J sempre. Ringraziamo lei per la fantastica musica. E per tutta la playlist. Infatti ci vuole un po' di Kiss. Ok, allora abbiamo introdotto l'argomento, abbiamo letto un testo, un articolo molto anche interessante per il fatto che si parla della storia del vibratore e di conseguenza si parla anche un po' della storia del piacere femminile, no? E quindi scusate, qui c'è un attimo di riassestamento. Sì. E niente, adesso noi vorremmo continuare la puntata. In che modo? Proponendovi un'intervista, in realtà una chiacchierata, con una ragazza che fa parte di Uovo, perché vi ricordiamo che appunto c'è questo negozio, questo nuovo negozio, e appunto a Milano, e noi volevamo chiamare appunto questa nostra amica per parlare un po' con lei di cosa sex significa toys. Vendere sex toys e un po' fare una chiacchierata con lei. Ricordiamoci appunto che alla fine i sex toys ci servono per imparare a conoscerci. E quindi sono importanti. E quindi ci sta sempre avere anche qualcuno che possa consigliarti. Esatto, perché alla fine non un po' questa liberazione verso il nostro piacere, poi sia maschile che femminile, perché adesso stiamo facendo vertere un po' tutto sul piacere femminile. Invece ma dobbiamo ricordare. Ricordiamo che in realtà i sex toys sono appunto per incentivare chiunque. Il piacere, appunto, di coppia, personale, ed è appunto per tutti. E niente, quello che si consiglia è non è che tutti sono uguali, quindi ognuno dovrebbe scegliere in base al proprio corpo, in base a come si conosce e a quello che piace a se stesso. Quindi le ragazze di Uovo possono aiutare sicuramente a dirci un po' di più su come scegliere questi strumenti del piacere. Allora faccio partire la chiamata. Dai. Intanto riprovo a mettere il tappeto, sono riuscita a metterlo. Sta squillando. No, mi sa che possiamo riprovare. Mettiamo su una canzone, okay. Mi sa. Riproviamo più tardi. Riproviamo dopo la canzone. Allora devo togliere il tappeto fantastico che ero riuscita a mettere. E ascolteremo Versi di passione di DJ Graff. Stare bene, stare bene. Sono dentro te, leccami, come un ciupa ciupa, succhiami, gustami, amami, che adesso arriva il bello, vai così, d'ammacata piaccia quanto piace a me, senza doppi sensi fottere, cazzo figa, culo tette, giorno e notte, il letto contro il muro batte, è il tempo dell'amore, il ritmo della giungla prende al cuore, cosa c'è meglio di godere, parlo di scopare, lasciati guardare, lascia che io veda quando sei bella nuda, con tutta quella carne cruda che c'è a disposizione, quale migliore occasione per fare un poco di capriole, se vuoi col Kama Sutra alla mano, studiamo, ci imboschiamo, io e te come natura crea, finché alla fine insieme, oh yeah. Lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con me, lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con me, lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con me, lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, facciamolo, facciamolo. sale tipo check, guardandoti vedo il sole. Pensa se mi vuole, mi chiedo, gustando già il sapore delle sue labbra mo' di cuore. Quanto sei buona, sei la mia ballerina, sei la migliore rima, l'immagine perfetta la mattina. E se ti metti così, io ti faccio così, e se ti piace così, vai così, sì. Capisce dal respiro che suona meglio di un fagotto, la melodia mi incanta come un cobra, resto dritto. Solo per te, viaggio con te, so di te, t'amo più di quel che immagini te. È una chitarra vagabonda come Romeo, che suona nella notte per l'amore mio. Love, amor, amour, pronta per il tour, per la fantasia vi ho il passepartout. Ma ora, massaggiami la balla con cura, finché quella faccenda si fa dura e vuole entrare dentro la fessura. Maiura, mi fai salire la temperatura, mi droghi tutti i sensi, mi pensi, ma quanto mi pensi. Resta tra i miei versi, che poi ci si ritrova a dondolarsi. Su, giù, spingo io, spingi tu, e vai a star bene su sto funky. Lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. Lascia che io ti porti via con lascia te. Che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. Lascia che io ti porti via con lascia te. Lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. Lascia che io ti porti via con lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. Sono innamorata appena me l'hai fatta vedere. Succede come nelle fiabe a casa. Segui la corrente sopra un fiume che ti porta al mare. Sognare è naturale. L'arrapamenta via la fotta. Ti screccio tutta umetta. Fammi sentire come scotta. Lasciami gustare questa ebollizione a cui dedico i miei versi di passione. Vieni qui vicino a me, non mi lasciare mai. Già sai che gli occhi tuoi danno vita ai miei. In una dimensione liscia strettamente personale. Facciamoci sto viaggio interstellare. A luci spente accese basta che mi fai annusare. Visto che mi fai sballare. Lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te. Facciamolo. Lascia che io ti porti via con te. Lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te. Facciamolo. Lascia che io ti porti via con te. Lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te. Facciamolo. Lascia che io ti porti via con te. Lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te. Facciamolo. Facciamolo. Madò, che canzone, che mi sono emozionata. Grande DJ Graf, versi di passione, e sono stati davvero dei versi di passione. Mm-hmm. Ok, quindi adesso torniamo alla nostra chiamata. Sì, la faccio partire. Vediamo se, adesso Federica ci risponde. Ho fatto, sì, numero giusto. Tanto rimetto il tappeto. Vai. Pronto? Ciao, ciao, ciao Fede, come stai? Ciao ragazze, bene, grazie. Beh, bene. Siamo un po' emozionate comunque per questa telefonata. Sì, siamo... Io sì, c'ho un po' di agitella. ma è l'emozione che è quella positiva, speriamo. Sì, poi tipo mancano 30 secondi, allora mi immaginavo tipo in studio 10, 9, 8, ecco pronti sulla 2, ecco ok, eccoci. Più o meno è andata così. Esatto, eravamo qua a farci il controllo alla rovescia. Esatto, ci vuole un po' di sincronia perché sennò si rischia di parlare prima che il microfono sia acceso, poi è un casino. Cioè, ti dico bello, a me ha sempre affascinato e incuriosito la radio, il funzionamento. Ma è la prima volta che... Sì, è per questo che sono emozionata. Dai, che bello, siamo vedrai molto contente. È molto divertente, sì. Molto divertente. Torniamo a sono noi. Sono a vostra disposizione. Bene, ti faremo un sacco di domande, sappilo. Volentieri. Niente, noi ti chiamiamo perché oggi la puntata verte appunto sull'autoerotismo e i sex toys. E quello che dicevamo poco fa è che appunto i sex toys servono a noi per imparare a conoscerci, e ce n'è uno differente per ognuno. E niente, volevamo chiederti un po' come è nato questo progetto di Uovo. Raccontaci un po' appunto di questa bella storia. Allora, io in realtà faccio parte di Uovo da relativamente poco, da un anno di fatto. E Uovo esiste da 5 anni e la fondatrice di questo bellissimo progetto è Frida. E tra l'altro noi facevamo il liceo assieme, quindi tipo dai, la vita poi sì, abbiamo fatto tutte e due il boccioni e poi per puro caso io avevo bisogno di cambiare la mia vita lavorativa, mi sono sempre sentita un po' inutile e sfruttata, e a caso un giorno ho chiesto a Frida se aveva bisogno in negozio, lei mi ha detto di sì e boh, ho iniziato a collaborare con lei e nell'arco di un anno sono cambiate tante cose. Questo per dire che Uovo esiste da 5 anni e ha avuto un'evoluzione nel tempo, non è sempre stato dedicato e incentrato sulla sessualità, ma era più all'inizio un posto dove potevi vivere il tuo corpo in modo libero e in alcune circostanze, tra cui tipo quando vai a ballare, nei club, quindi un posto dove potevi trovare un abbigliamento che potesse rappresentare di più la parte selvaggia che c'è in te. E infatti chi è mai venuto in negozio sa che è diviso in due parti, c'è ad oggi la parte appena si entra che è dedicata a tutta i toy e la parte dietro invece dove c'è la lingerie. Una volta era al contrario, c'era la lingerie come prima stanza e poi c'erano i toy. Erano, e come mai questo cambiamento? Perché ci siamo accorte che Frida si è accorta che in realtà la gente era molto più incuriosita e soprattutto vogliosa di imparare e di conoscere quello che c'era dietro alla realtà dei toy. Quindi nel tempo la cosa si è ribaltata e Frida ha deciso di porre l'accento sulla conoscenza del proprio corpo, della sessualità tramite l'utilizzo e l'acquisto dei toy. Tra l'altro Frida è una persona preparatissima che studia ad oggi ed è lei anche a fare formazione a noi che la riceviamo mentalmente, perché c'è un linguaggio corretto da usare, un modo giusto di parlare, perché prima ancora della vendita quello che preme noi è far conoscere, dare alle persone la possibilità di conoscere il proprio corpo. Alla fine, se ci pensiamo bene, Uovo non è altro che una farmacia dedicata alla sessualità, passatemi il termine, nel senso che trovi tutto quello, il rimedio e tutto quello che può aiutare una persona a vivere e a scoprire la sua sessualità e anche quella degli altri, quella dei partner. Ma infatti io vi seguo su Instagram, anzi direi che tutte le ribelli vi seguono su Instagram, e spesso infatti si vedono pubblicate una sorta di tutorial, no? Non solo dell'utilizzo, certo, ma anche proprio una sorta di mini video su educazione sessuale, esatto, quasi. Esatto, educazione sessuale. Quello che che piacerebbe essere a noi è un faro nella notte che illumina dalla disinformazione, dalle cose non dette. Vogliamo proprio mettere luce e chiarezza, perché è giusto, la sessualità fa parte della nostra vita e viverla bene ci fa vivere meglio sotto tantissimi aspetti, cioè reprimere la nostra sessualità fa sì che a catena si inneschino tantissime altre cose che magari non ci fanno vivere rilassati, ma la quotidianità, tipo al lavoro, quando ti svegli, preso bene, preso male. Purtroppo c'è vai, scusa. No, no, in realtà volevo farvi un complimento perché vi viene, cioè, vi riesce molto bene. Sono proprio anche grazie. Il modo in cui, sì, ma davvero, anche il modo in cui realizzate i video sono brevi ma anche molto chiari e concisi, proprio centrate il punto e lo fate proprio anche con, cioè senza essere, senza inibizioni. No, e soprattutto con quella sorta di serietà e appunto che dà... che permette appunto di seguirlo in maniera molto naturale, non so come dire, non lo fate passare come andate a far cadere appunto il tabù tramite sì, la vostra comunicazione e catturate l'attenzione è molto bello perché c'è appunto questa passa finalmente questa sorta di educazione un po' emotiva ed etica a... mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, sì, io un po' lontana ma ti sento. Ok, allora avvicino al telefono. Ok, no, perché io improvvisamente non ho sentito più nulla. Ok. E appunto dicevo, è interessante vedere come c'è proprio questa educazione emotiva e un po' andando contro quella che è questa etica un po' bigotta che sta dietro appunto alla sessualità, al piacere e soprattutto a quanto... benessere e beneficio da appunto se si ha una libertà sessuale, una libertà appunto del proprio piacere. Esatto, alla fine il piacere è un diritto, cioè, che abbiamo tutti e perché non sfruttare bene il suo potenziale proprio a livello di benessere generale del corpo e della mente. Purtroppo in Italia, cioè, mi rendo conto che il posto dove viviamo, e l'ho vissuto in primis io, cioè, con la mia famiglia, tra l'altro mio fratello è gay ed è stato difficile comunicarlo poi a casa, ecco, diciamo. E quindi sì, bisogna normalizzare. È per questo che i nostri video sono normali, si parla di toy come se si parlasse di una qualsiasi altra cosa. Ed è giusto, deve essere così. Ovviamente si parla di quest'ambito, è non parlarne che è sbagliato, come è sbagliato. Non che è sbagliato andare nel sexy shop con le vetrine scure, che non vedi cosa c'è dentro, per l'amor di Dio. Cioè, la concorrenza non me ne voglia, però cioè, forse si sa che sia luce così normale, vetrina, cioè, non vuol dire che ti deve essere, bisogna schiaffare in faccia alla gente cose o immagini che probabilmente loro si aspettano di vedere, perché la prima cosa che mi dicono le persone che non sono mai state da uovo è: ah, ma io non pensavo che fosse così. E poi piovono aggettivi di qualsiasi tipo genere, ma positivi e belli, legati alla normalità e a una situazione di comfort. Ma senti, ma invece cosa dicono sul design? Perché, non lo so, spesso quando capita anche a noi, che ne abbiamo discusso anche al nostro interno, di venire a contatto con persone e parlare con queste persone, magari così tra una chiacchiera e l'altra, di sex toy, che sia un po' quello stereotipo per cui devono essere per forza brutti. Non è vero, anzi... c'è uno studio incredibile dietro il design dei prodotti, di questo tipo di prodotto, e noi dedichiamo tantissimo tempo e tantissima attenzione alla scelta dei nostri toy. I materiali sono super nuovi, sono dotati di tecnologie interessantissime, le shape sono di diverso tipo e generi, mai attinenti tra l'altro all'anatomia reale, quindi uno non si aspetterebbe mai di trovare un piccolo stimolatore clitorideo che assomiglia a un tenero sushi. quindi sicuramente questa è una cosa di cui le persone si stupiscono. Sì. però quando entrano, perché di solito si associa, ecco, la forma fallica al classico dildo in silicone non vibrante che noi abbiamo in negozio, ma sono molto interessanti anche i colori che scegliamo. Il mercato offre tanto, sicuramente, perché il sesso è un settore che andrà sempre, e per cui c'è tantissima offerta. Bisogna saper scegliere molto bene, perché comunque sono materiali e oggetti che entrano in contatto con le nostre mucose interne, e è bene dedicare tanta attenzione al design, ma nel suo insieme. Quindi si parla di qualità del materiale, di particolare attenzione delle linee, delle forme, perché ovviamente più un toy è performante è perché è compatibile alla nostra anatomia interna per quanto riguarda le donne, e c'è tantissima altra per la sessualità, e tantissima altra attenzione per il corpo maschile. E è per questo che si sconsiglia generalmente di acquistare un toy magari così online su Amazon, cioè senza sapere bene che cosa si sta comprando. Per questo per noi è molto importante l'esperienza all'interno del negozio, mm-hmm. perché ma tra l'altro una persona che viene... Fede, scusa se ti interrompo, però questa domanda adesso mi è proprio venuta così in testa. Sta fremendo dalla voglia di fartela. Sì, davvero, sono lì che dico ad Andrea, ti prego, falla fare prima a me la domanda, Andrea, ti prego. Ok, perché... ok. No, la mia domanda è sulle fiere. Cioè, anche voi per lavoro andrete in giro a partecipare a fiere per selezionare i prodotti e tutto sì, quanto. Certo. Ma quanto è divertente? Sì. Non so allora, se io purtroppo non ci sono ancora andata, però ho dei racconti e dei video, e tra l'altro, ragazze, sulle storie in evidenza c'è anche la tips dedicata al viaggio in Cina che ha fatto Frida e altre ragazze mm-hmm. del gruppo per andare appunto a questa fiera. Comunque sì, ad oggi con la situazione che c'è abbiamo partecipato a queste fiere online mm-hmm. Con tipo Zoom, queste cose sì. E, però ovviamente il fatto di non poter toccare è molto limitante, perché ti accorgi subito se ad esempio un silicone è pieno di ftalati al tatto, all'olfatto, cioè ti puoi rendere conto di tante cose. Certo. E comunque è molto interessante, cioè io ho imparato e sto imparando nel tempo a scoprire un sacco di cose che non conoscevo, cioè la tipo ad esempio la mia vita sessuale, la mia sessualità e come io mi vivo il corpo è cambiata in modo esponenziale. Dai, che bello, lavoro lì. Cioè, e poi cioè so come dire, è una piccola startup uovo, noi ci stiamo impegnando tantissimo, però ti rendi conto di far parte di una cosa che vuole il bene comune, e quindi è super motivante farlo. Quindi io sono super grata di questo, grazie uovo, grazie Frida, grazie. Vabbè, grazie a voi. Anche noi vi ringraziamo, perché state facendo una cosa davvero giusta. Comunque state all'occhio, perché usciranno dei tips super lol a breve. Wow, non vediamo l'ora. Ci stiamo impegnando tantissimo. Che bello. Fede, senti, adesso diamo un attimo di aria ai nostri ascoltatori, tu rimani con noi, mettiamo su una canzone e riprendiamo, che abbiamo ancora qualche domandina da farti, va bene? Tu rimani con noi. Ok. Va bene, mettiamo okay. su. Yes. Allora, ascoltiamo. Adesso ascolteremo, Fede. Cry to Me. Che cosa? Cry to Me di Solomon Burke. Vabbè, non me ne voglia Jessica che ha selezionato la canzone e tutta la playlist. E buon ascolto. Buon ascolto. Tin tin. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? here I am, oh honey, oh, come on, you're cutting me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh, yeah. Oh, come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, oh yeah, when you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying? Ok, credo che le mie capacità tecniche, le mie skills, sei bravissima. da regista, si dice sì, così quando sì, beh, se uno sta in regia, è una regista. Va bene. Ok, quindi ci siamo. Io metto di nuovo il tappeto, così per chi si è connesso adesso con noi. Siamo in diretta con Federica di Uovo e eccoci. E niente, volevamo continuare con le nostre domandine. Niente, la prima che io volevo farti era appunto relativa ai feedback che vi hanno dato, nel senso che ho visto, bazzicando un po' sulla vostra pagina Instagram, che voi in realtà avete un profilo che vuole interagire con il pubblico. E quindi ci chiedevamo appunto che tipo di risposta voi avete. E anche da un punto di vista solo di magari di conoscenza, se vi scrivono soltanto per informazioni, e sì, volevamo sapere appunto questo. Allora, questo tipo di interazione abbiamo deciso di impostarla tramite dei sondaggi a cui poi noi leghiamo una spiegazione e un contenuto che va a approfondire quello che si chiede. E, quindi, non so, magari si chiede che tipo di rapporto hai col tuo corpo, le persone danno svariate risposte, in base alle risposte che abbiamo cerchiamo di fare il contenuto in modo mirato. Le persone si dimostrano sempre stracuriose e hanno evidentemente tantissima voglia di buttare fuori e tirare fuori quello che riguarda la propria sessualità, perché le risposte sono dalle più disparate, ma più che risposte, cioè vediamo che le persone hanno richieste di voler sapere cose. E questo è un po' anche quindi, indicatore della situazione attuale in sì, questo mondo. Il fatto che sì, almeno in Italia decisamente, perché il fatto che ci sia poca informazione fa sì che le persone non abbiano conoscenza e magari anche libertà e occasione di parlare di sessualità, quindi per fare domande e cercare di capire di più. Quindi quando dico proprio che Uovo vuole essere un fare un po' in questo senso, cioè c'è proprio fame di, cioè c'è richiesta di sapere, fame di sapere, di di provare a parlarne come in modo libero, in modo normale. Tra l'altro verbalizzare tutto quello che riguarda la sessualità è complicato, perché mi rendo conto che quando le persone entrano in negozio io le metto subito a proprio agio, però fanno fatica a dire e a esplicitare quello di cui hanno bisogno. Secondo te, Fede... Scusa, va, finisci. Scusami. E no, il fatto di usare i sondaggi e Instagram come modo di fare domande, risposte, avere direttamente dei consigli, aiuta di più le persone a avvicinarsi e iniziare a parlare di sessualità. Infatti tutti, prima di venire nel negozio, la maggior parte delle volte scrivono su Instagram. Immaginavo, sai, immaginavo, perché non è facile. Ma un'altra curiosità, scusa Gioia, volevo farle questa domanda, ma voi avete visto un cambiamento in quest'anno nella richiesta, cioè, scusate, la riformula meglio, in questa situazione di lockdown, appunto in quest'anno di pandemia, voi avete visto appunto un cambiamento nella richiesta anche di informazione? Sì, assolutamente, è stato molto strano e molto bello, curioso quello che è successo, nel senso che a partire dal primo lockdown noi abbiamo lavorato bene, abbiamo notato che le persone probabilmente e giustamente, stando parecchio a casa, hanno avuto la possibilità di dedicare più tempo a tantissime cose che magari erano un po' più lasciate nel cassetto, e tra queste c'è sicuramente la sessualità di coppia e anche legata alla masturbazione, al piacere personale, perché le persone sono state distanti, tante coppie sono state separate, infatti, questo ha fatto sì che probabilmente ci sia stato una sorta di sdoganamento, passatemi il termine, sì, ai toy e alla masturbazione. Noi abbiamo avuto una richiesta talmente alta, ok, e la gente era impossibilitata, tra l'altro, di venire in negozio, che abbiamo deciso di creare una parte online appunto dedicata alle consulenze. Cioè, se tu abiti in un'altra città o, come nel caso del primo lockdown, non puoi venire direttamente in negozio e quindi non ti posso spiegare come funzionano le cose, puoi avere una consulenza online e quindi parli con me o parli con Frida e noi ti si spiega bene come funziona, così poi tu puoi scegliere sul sito quello che vuoi e con le idee un po' più chiare. E quindi sì, cioè è cambiato. Noi sicuramente ce la siamo giocata bene. Ok. Nel senso che abbiamo capito che le persone, stando tanto a casa, avevano voglia di dedicare tempo alla propria sessualità. E quindi abbiamo iniziato anche a interagire noi diversamente sui social con le persone che seguono Uovo. Ok. Ma Fede, scusami, fantastico, adesso anche adesso mi viene da farti la domanda che volevo farti prima. Quanto, secondo appunto la tua esperienza, cioè quanto c'è bisogno, quanto senti che ci sia bisogno di trovare un linguaggio comune per parlare di tutte queste cose? Perché mi è sembrato di capire che ci sono delle difficoltà tra voi e le persone che cercano un toy. Ma più che un linguaggio comune, cioè bisogna normalizzare, il verbalizzare è importante ed è quello che fanno fatica le persone, perché poi poi quando poi stai dentro il negozio, chiacchieri un po', ti rendi conto che le persone cambiano tantissimo e non è come se stessero in un posto qualsiasi a parlare di qualsiasi altra cosa. È che c'è proprio il tabù di parlare anche di della sesso, parola, proprio delle terminologie. Sì, tipo, di sì, tra l'altro, ragazze, prima che scoppiasse tutto il casino, noi avevamo iniziato un format stracarino, abbiamo fatto in tempo a farne uno, poi tutti chiusi in casa, dove io giravo per strada e il video in questione l'abbiamo girato in Duomo e chiedevo alle persone: ciao, ascolta, ma se ti dico clitoride, che cosa ti viene in mente? E la gente, cioè, e questo lo trovate sul nostro canale YouTube. Ah, c'è, quindi l'avete pubblicato? Certo, ma allora andremo a vedere subito. Assolutamente, dovete, perché è stra divertente, le persone, cioè, sbarellavano proprio. Ma tra l'altro la domanda veniva posta in modo tra easy: ciao, ascolta, ma tu sai dirti che differenza c'è tra glande e clitoride? E le persone hanno proprio, c'è chi si trova in una zona comfort e riesce a parlare tranquillamente, infatti quel video sono varie le risposte, però ecco, sicuramente c'è sbatti. C'è un sacco di imbarazzo. Sì, ma anche di lavoro da fare. Immagino. E adesso, per dici, chi, Andrea, per esempio, non so, perché io, per esempio, quando presi il mio primo toy, ero completamente imbarazzata, quindi l'ho preso online, me lo sono fatta inviare ed era una cosa assolutamente agghiacciante per me. Sbagliatissimo e niente, poi la cosa si è aperta. Quindi la domanda è che consigli puoi dare a chi vuole iniziare, cioè qual è il primo passo? Secondo voi, per approcciare appunto al toy? Beh, già una persona che ne acquista uno, indipendentemente da dove lo acquista, ha deciso di fare il primo passo. Okay. E quindi va bene, questa è già la prima cosa. Quello che mi sento di dire, che avevo detto in precedenza, è che ricordiamo che comunque stiamo interagendo con degli oggetti che entrano a stretto contatto col nostro corpo, per cui magari invece di comprarlo a caso come hai fatto tu su internet e alla cieca, a questo punto, cioè, affidatevi ad esempio a Uovo per avere la possibilità di capire che cosa si sta acquistando, anche perché sono tantissimi e è bene tipo vederli, riconoscerli, sapere che una forma piuttosto che un'altra serve a stimolare la nostra zona CUV piuttosto che il nostro clitoride. Quindi credo che sia importante comunque recarsi in uno shop, perché okay, il fatto di vedere, cioè, fa tanto. Poi uno shop qualsiasi magari non ti dà la possibilità di capire come un determinato oggetto o forma interagisce col tuo corpo, però vabbè, infatti questo è quello che ci prefiggiamo noi. Però in generale già il fatto che uno decide di averne uno è perché ha scardinato un po' di magari stupidi preconcetti o paure. Però il fatto di avere la possibilità di toccare, vedere e capire è sicuramente importante. Quindi il primo passo in assoluto è l'informazione. Ok. Ma anche banalmente, per sapere che se acquisti un toy in silicone e poi compri un lubrificante, il lubrificante deve essere assolutamente a base d'acqua, per esempio. Certo. Perché gli stessi materiali a contatto possono danneggiare la superficie di un oggetto, quindi all'interno dei lubrificanti a base di silicone c'è parecchio silicone, e i profilattici ad esempio sono fatti in silicone, e un lubrificante a base siliconica con un profilattico lo può danneggiare e questo non è bene. Quindi sicuramente è l'informazione. Ma informazione secondo te anche dal punto di vista dell'utilizzo? Cioè, è ovvio che la fantasia è soggettiva e deve essere libera, dopodiché ci sono dei toys che sono più adatti ad alcune pratiche e meno per altre. Mi viene in mente, se si vuole avere una penetrazione vaginale, magari quel toy non è adatto a un altro tipo di penetrazione, come per esempio quell'anale. so che ci sono delle differenze da tenere conto, perché potrebbe essere che non ci siano insomma delle difficoltà. Certo, è per questo che andare e vedere e toccare è importante. Ci sono toi che sono atti alla stimolazione esterna, quindi servono a stimolare il clitoride e la vulva, e ci sono quelli interni che servono a stimolare l'indotto vaginale, e per cui sono oggetti che hanno una forma scucchiaiata, ad esempio. E quegli anali, alcuni replicano ad esempio l'ultimo tratto del retto, e sono fatti generalmente da tante palline messe una sopra l'altra, ad esempio, oppure ci sono i classici plug, che sono questo è un plug, è la forma di un plug, in effetti tipo è difficile da spiegare come sulla nostra locandina che... di oggi abbiamo un simpatico plugino anale che sorride con le guanciottine rosa. Esatto, tra l'altro una cosa divertentissima che la gente quando arriva dice: sai, ciao, benvenuti da uomo, ciao, di che cosa ti posso essere d'aiuto? Sì, mi servirebbe un plugin anale. E io non resisto a dire: allora no, il plugin è quello di WordPress, noi invece abbiamo dei plug. Tra l'altro l'intervista la sto facendo nel cortile della casa dove sto abitando. Oddio. Top davvero. Bellissimo. No, comunque a parte lo sbrago, sì, certo. Ma ogni cosa ha una forma e anche i materiali sono diversi. Mi vengono in mente delle parole che ha usato una mia compagna durante un laboratorio, adesso non mi ricordo di quale tipo, però comunque di scoperta del piacere anale, e forse era con Valentine oppure non mi ricordo con quale altra compagna, e quello che diceva lei, che erano parole che a sua volta aveva ripreso da un'altra persona che aveva sentito parlare, erano queste. Cioè lei diceva che non tutto ciò che può uscire dalla vagina può poi uscire dall'ano. Adesso magari l'ho detta male. Allora, aspetta, credo che voleva dire questa cosa. Sì, allora, nel senso che... Io la sto interpretando e sono un po' perplessa. All'interno dell'ano, cioè, devono avere uno stopper, perché altrimenti risalgono. Esatto. Mentre la vagina... ha un muscolo e butta fuori. Sì, e più facilmente puoi ributtare fuori... Sì, assolutamente, pensiamo agli assorbenti interni, tipo quelli a spugnetta. Noi vendiamo degli assorbenti che sono delle spugne che si inseriscono all'interno dell'indotto vaginale, e sono molto utili intanto perché sono in spugne e si adattano perfettamente al nostro interno, e poi hanno una durata molto più lunga dei normali assorbenti, e siccome non sono sbiancati con la candeggina, non c'è, li puoi tenere di notte perché non c'è il rischio che si stacchino dei piccoli pezzettini, e questo non fa bene, quindi certo, li puoi tenere di notte. Puoi avere anche un rapporto, e ovviamente durante un rapporto la spugnetta viene spinta molto molto molto molto in alto. Detto questo, rimane lì, ci si concentra, si spinge un po', e si infila la mano, e ovviamente viene via quello che si infila all'interno, certo, del retto. Deve avere assolutamente uno stopper. Gli stopper possono essere di diversi tipi. Ci sono i classici plug, che terminano con una parte piatta, per cui tipo la penetrazione è passiva, il plug rimane all'interno dello sfintere, e quelli che finiscono con un ring, quindi hanno la possibilità di essere spostati, inseriti o rimessi. Questo perché i plug all'interno dello sfintere danno la possibilità a un muscolo, che è quasi sempre contratto perché una parte della contrazione è involontaria, si rilassi attorno alla parete del plug, quindi il muscolo viene ossigenato, si rilassa la parete pelvica, e quindi è piacevole la penetrazione vaginale, ed è utilissimo a preparare ad esempio lo sfintere a una penetrazione anale. Tra l'altro l'utilizzo dei plug viene utilizzato tantissimo anche per chi soffre di ragadi, ad esempio, perché dà proprio la possibilità a un muscolo di rilassarsi. E quindi, tipo, nel caso di una piccola ferita, se la parete, se la pelle dove c'è il taglio è rilassata, si può rimarginare. E i plug aiutano proprio al rilassamento della cavità sintetica. Ma dai! Pazzesco! Questo non lo sapevo proprio per niente, non neanche lo immaginavo. Fede, tu ci senti? Ebbene sì. Ok, sì, ci sento. Seguite tutti la pagina di Uovo e impariamo tutti da loro, perché sì, alla fine non te lo immagineresti nemmeno. C'è talmente poca conoscenza su in realtà il nostro anche apparato riproduttore e tutto il piacere, e che è incredibile quanto noi abbiamo ancora da imparare. Sì, ma anche io che lavoro lì, cioè, non smetto mai di stupirmi e imparare cose. Immaginiamo. Grazie. Sì. Comunque avevamo un'ultima domanda, proprio l'ultimissima, prima di salutarci, e volevamo chiederti come rispondono o hanno risposto gli uomini a tutto ciò che offrite nel vostro shop. Allora, direi, allora, prima di tutto rispondo ricollegandomi alla questione design. È ovvio che per la stimolazione del piacere femminile le forme e gli oggetti sono più vari, perché noi possiamo avere una stimolazione esterna e una interna. Per quanto riguarda gli uomini, i maschili sono quasi sempre costituiti da una sleeve in silicone con all'interno una texture e con un'impugnatura, per cui poi ce ne sono di diversi tipi, di diversi materiali, quasi sempre sono in silicone, però c'è sempre il concetto della stretta, della presa. Per gli uomini ci sono anche i cock ring, ad esempio, che sono questi anelli che si mettono alla base dell'asta del pene quando il pene è già eretto e servono a trattenere il sangue all'interno del tessuto spugnoso, per cui l'erezione può durare più a lungo e aumenta leggermente il volume del pene. E poi ci sono i toy prostatici, perché gli uomini hanno questo pulsantino speciale. Sì. Esatto. E più! Che però non tutti sono così open. Però... Esatto, anzi, volevo arrivare lì. Esatto, però sono più legati rispetto alle donne. Sembra, per un uomo è molto più strano l'idea di utilizzare e comprare un toy, sembra quasi un tradimento alla mano a volte, li vedo sempre molto scettici. Infatti noi abbiamo dei piccoli masturbatori maschili, dei toy da 10 euro che consigliamo a chi vuole iniziare a esplorare il mondo dei toy riguardante la masturbazione. Però sì, sono molto più scettici, sì. Entrano molto più donne e spesso sono le donne che parlano per prime. E infatti volevo chiederti, ma usano anche un po' delle scuse come per giustificare la loro presenza, anche magari quando entrano da soli, se entrano da soli? C'è magari no, un episodio... No, questo non succede mai. No, ok. Questo non succede mai, perché se vieni da... Cioè, le persone che entrano le vedo sempre... Chi è più o meno in imbarazzo, questo sì. Mm-hmm. Cioè, lo capisci chi è più a proprio agio. Però non è mai entrato nessuno dicendo sai, un mio amico ha detto questa cosa. No, assolutamente. Chiedo per un amico. Assolutamente. Però mi sono capitati tipo i ragazzi che volevano fare i regali all'amico che compie 18 anni e lì c'è tipo un summit, si riunivano quando si poteva entrare in un po' in nego, erano lì 5 o 6. Che, ma che belli! No, secondo me sì, sono troppo teneri. E tra l'altro il target di Uovo è veramente molto ampio, quindi mi capitano le persone super giovani, come una volta è entrata una signora super cute, aveva sulle 70 anni e voleva prendere un toy perché a suo marito era stato diagnosticato una tumore alla prostata e quindi non riusciva più ad avere rapporti mm-hmm. con la moglie ed era talmente disperato che si voleva ritirare in esilio nella casa in Liguria. No. E allora la moglie gli ha detto: ma no, no, non ti preoccupare che troviamo il modo. E sono venuti, cioè lei è entrata e il marito mm-hmm. è rimasto fuori perché si vergognava e ogni tanto la sciura usciva e urlava: la signorina mi ha detto che era l'altra parte. No, ma che dolcezza! Questo amore è vero, eh. È amore vero! Sì, sì, ma che sì, bello! Quella lì è stata una delle robe più carine che mi sono capitate, che spalmissi. Che dolcezza! Molto bello. Fede, ti ringraziamo tantissimo, specialmente anche per quest'ultima testimonianza. E per i consigli che ci hai dato. Sì, assolutamente. Ci hai dato molte informazioni che mai sì. avrei pensato, insomma. Anche perché questa puntata ovviamente la stiamo registrando, per cui faremo il podcast e lo faremo girare a manetta. A manetta sì. Esatto. Grazie ancora. Mi sa che ci vedremo anche in negozio, mi sa. Sì, sì, appena sarà possibile. Si potrà... Verremo. Così sono anche per contenta, grazie. Anche per salutarti e ringraziarti di persona. Di persona, infatti. Esatto, così ci vediamo di persona, con la mascherina, sì. ma almeno così. Nel mio habitat naturale. Ti aspetto. Anche noi. Grazie mille. Ciao. Ciao, Fede. Ciao, Fede. Ciao ragazzi. Ciao. Wow. Che bella chiacchierata. Sì. Molto istruttiva e appunto io spero proprio che col podcast ci sia la possibilità di far girare il più possibile anche sì. queste informazioni. E che anche voi siate incuriositi, insomma, che un po' vi abbia, se avete un po' dei tabù a riguardo, vi abbia un po' sdoganato questa voglia di scoprire un po' il vostro corpo e il piacere. Vostro piacere. Ok, e Andrea, vuoi annunciare la prossima canzone? La prossima canzone è Sexual Healing di Marvin Gaye. I want sexual healing, sexual Eccoci qui, abbiamo ascoltato Beautiful Stranger di Madonna. Bellissimo. Molto, molto, molto. Infatti ringraziamo ancora la nostra Lady J per la selecta musicale. Esatto. E adesso andiamo avanti con la nostra puntata. E a fare le birichine. Adesso iniziamo a divertirci facendo le birichine. Mm-hmm. Adesso inizierà la nostra roulette di numeri telefonici e tenetevi pronti per essere imbarazzati. Vai, chissà se risponde. Chissà se risponde. Aia. Pronto? Ciao! Benvenuto alle ribelli! Benvenuto! L'abbiamo fatta! Ciao Matteo! Ciao Matteo! Ciao. Come Ciao. Stai? Ma tutto bene, un po' di corsa per i regali. Ah, l'ultima ecco. Corsa. Giusto, giusto, giusto. Vabbè, noi ti introduciamo, stiamo facendo la nostra bella puntata su l'autoretismo e i sex toy e abbiamo pensato di chiamarti e farti qualche domandina. Ma così a caso abbiamo così, pensato di chiamarti. A casissimo sì, sì, proprio. Sì, sì, no, ma va benissimo, va benissimo. Allora, prima domanda, che cosa pensi dei sex toy, Matteo? Una domanda un po' generica, però penso che siano un oggetto molto utile, è forse una delle più grandi invenzioni della storia. Ah, wow. E tu ce l'hai un dildo? O un vibratore? No, per me no. Per no, me no. Per te no? Ma? Ma saresti curioso magari di averne uno tutto tuo? Ma dipende l'utilizzo, diciamo, però sì, diciamo che ne ho già avuti, però mai utilizzati purtroppo. Beh, allora mai bisogna rimediare a questo purtroppo. bisognerebbe. Beh, tu non hai una compagna, non giocate? Avete mai provato? Sì, ce l'ho, ma purtroppo non l'abbiamo ancora provato, sarei curioso di sapere cosa ne pensa. Ok. E... comunque secondo me Matteo sembra troppo a suo agio per averlo proprio proprio così sì, buttato. Tipo catapultato in questo argomento così dal nulla, che forse non era proprio così dal nulla. Vero? Forse non era proprio così dal nulla, perché io adesso lo specifico, l'unico sex toy che ho avuto poi l'ho dovuto regalare. A chi l'hai dovuto regalare? Ma perché questo gesto così generoso, ma allo stesso tempo che viene da dire ma perché, perché? È stato un po' triste, perché era un regalo che io avevo fatto alla mia ex, ormai, però non è mai stato utilizzato, mi hanno detto okay. Preferisco la pelle. Vabbè, testuali parole proprio. Testuali parole, e chi è che ha voluto poi, e poi a chi è che l'hai dato? Ah, siamo sicuri di volerlo sapere? Non dobbiamo fare i nomi, ma... giusto il ruolo che questa persona ha nella tua vita. Diciamo che alla fine l'ho regalato alla mia migliore amica che aveva un gran bisogno del... o meglio, è stata molto felice di questo regalo, perché tra l'altro era anche una versione abbastanza lussuosa. Sì, sì, sì. Ma l'hai già detto che tipo di sex toy si tratta? Allora, sicuramente non so il nome specifico, diciamo, non so se ci sono dei nomi specifici, però in ogni caso diciamo che il fine è la stimolazione sia vaginale che clitoridea, quindi è ambivalente. Non male. Ottimo, sì. Molto interessante, deve essere molto piacevole. Deve essere, non lo so, io purtroppo non ho provato. Dovremmo solamente chiamare poi questa persona, ma... glielo risparmiamo. È vero. Glielo risparmio, forse è meglio, sì, sì, forse è meglio risparmiarglielo. Purtroppo gliel'ho regalato senza caricatore, quindi prima o poi si scaricheranno le batterie. Questa persona... E lì allora lì sarà un'enorme tristezza. Ma davvero? Vabbè, troverà il modo di ricreare il cavo, non lo so. Se è così piacevole, un modo per caricarlo. Insomma... cioè, un regalo del genere è un regalo pazzesco. Ma questo sex toy l'hai comprato online o invece in negozio? Allora, rigorosamente negozio fisico, perché volevo toccare e vedere, innanzitutto. E soprattutto voleva essere un bel regalo, quindi, insomma, comprare senza poter toccare qualcosa che poi... andrà, voglio dire, a contatto col corpo, secondo me è molto importante, poi anche dal punto di vista dell'affidabilità. Mm-hmm. E infatti qualcosa di simile lo diceva proprio anche la Federica delle Uovo, che è questo negozio di sex toys che abbiamo chiamato prima di chiamare te proprio. Esatto. E okay. Anche lei è stata molto esaustiva su questo e diceva proprio, consigliava proprio di andare in negozio e che chiaramente è tutta un'altra questione, tutta un'altra storia prenderlo online o fisicamente in negozio, anche perché puoi avere appunto dei consigli. Esattamente, anche l'utilizzo, la manutenzione, il mantenimento. O anche

che strano. Ma abbiamo un picco di ascolti che è incredibile. Vodafone, sì. No. Servizio di segreteria telefonica. Oh no. Ai ai ai. Ma ai, come? Ai. Cosa facciamo? Allora, proviamo. Direi di provare l'altra, no? Proviamo l'altra. Ok, vuoi intrattenere tu nel frattempo, che non riesco a fare due cose, certo, contemporaneamente. Abbiamo, adesso abbiamo rigirato la nostra roulette. E aspetta. Oh. Pronto? Oh. Pronto? Pronto? Ciao Maya, benvenuta alle Rivelli. Ciao Maya. Eh sì, è andata così, il destino. Oggi il destino ha scelto te. Sì. Sì, raga, che puntata, cioè, sono un po' distopico, vi stavo ascoltando, non ero ancora successo tutto, è appena successo in radio comunque. Va bene. Benvenuta Maya. Benvenuta. Quindi, sapevi, sai di che cosa ovviamente trattiamo, anche perché tu sei una ribelle. Vagamente, guarda. Quindi è inutile adesso fermarsi sui formalismi e spiegarti di cosa stiamo parlando. Quindi arriviamo subito al sodo, giusto per metterti a tuo agio. Vai, fatemela questa domanda in faccia, vai. Allora, la prima è: cosa pensi dei sex toy? Questa è facile. Cosa penso dei sex toys? Sì. Cioè, bene universale dell'umanità. Cioè, di che cosa... Bene comune. Ah, ok. Bene comune, seconda patrimonio risposta... universale. 2 su 2 qua, eh. E la seconda è chiaramente, tu hai un sex toy? Sì, ne ho diversi. Ne hai diversi. E per diverse occasioni. Che tipologia hai? Allora, ho un vibratore vivo. Okay. Vaginale, comprato da Uovo, mi è stato regalato per la laurea biennale. Grande Uovo, soddisfazioni since sempre. Ed è un vibratore tantrico con 8 diverse tipologie di vibrazioni e 3 potenze. Sì. Ed è in silicone e si piega. Ah, si piega, ok. Sì. Poi, proprio in termini di sex toys e di robe che aumentano e fanno divertire di più, in realtà, oltre per i sex toys duri e puri come ce li immaginiamo tra dildo, rabbit, clitoridei, eccetera, mm-hmm, in realtà devo confessarvi che ho un feticcio per le schiume tickling. Cioè? E sono quelle spume che tu metti sul corpo, mm-hmm, e quando fai pressione con una mano o di un'altra parte del corpo o di un'altra persona, cominciano a farti il solletico. Dai, che storia! Ora, provo a farvi sentire il rumore attraverso la cornetta del telefono. Mamma mia, questa puntata... Abbastanza. Sì, sembra tipo scoppietti. Sì. Sì. È come avere una di quelle caramelle... Le frizzine, tipo. Le frizzine, esatto. Belle. Frizzine, ma le lupo corpo, Alberto, su tutto il corpo. Ma che lupo Alberto? Le frizzirazzi, tipo. Quelle che si mettevano in polvere. Sì. Quella polverina che scoppia. Esatto, raga, quello è figo. È il top. Molto figo. Top quality. Vabbè, ma qual è il tuo preferito? Quindi fa una combo. Qual è il tuo preferito? La combo, non ho preferiti, sì, non puoi avere preferiti, dai, cioè un momento hai bisogno di uno, un momento hai bisogno dell'altro, che fai, cioè, non facciamo preferenze in politica, le dobbiamo fare con i sex toys, ma che no, c'è? Vabbè, vero, oddio, vero. Dipende, dai, dipende. No, la differenza di genere, dico, differenza di utilità, di valore. È vero. E quindi immaginiamo, vabbè, l'altra domanda, ma qua mi sa che si è già autorisposta, se hai mai fatto sesso con qualcun altro con dei sex toy? Allora, sì, sia con le schiume che con i vibratori. Mm-hmm. E... Che risposta? Ti dirò, ho incontrato partner che sono, a volte sono stati un po' gelosi, ma altre volte invece iper divertiti. Ah, ok, hai avuto anche della reticenza, quindi, da parte... Sì, iniziale, però poi che, cioè, nel senso, sono, come posso dire, sono una persona che sa tignare, quindi... Ok. Una personalità forte, come direbbero alcuni psicologi freudiani. Ok. Vabbè. Beh, questo sì, si era notato da no, quando hai detto ciao. No, da ma va. Ciao. Ma va. Ciao, ti lancio vivo. Ma dai, sono anche una persona timida. Ho anche dei difetti. No, no, però noi ci siamo chieste prima se magari effettivamente poteva esserci dell'imbarazzo, perché non hai risposto subito. Cosa stavi facendo, Maya? Stavo attaccando il mio di cognome al citofono, cioè 2 secondi avevo lasciato il telefono. Ci abbiamo beccato, Maya. C'è la cosa meno erotica del mondo, cioè, però lo stavo a fare. Va bene, Maya. Allora ti perdoniamo per questa volta. Oh, ti grazie. Ringraziamo. Grazie a voi, ragazze. Grazie mille. Dai, e forte ribelli sempre. Forza ribelli. Dai, ciao. Ciao Maya, grazie ciao, mille. Ciao. E vabbè, ma anche qua andavamo sul sicuro, sì, e dovremmo un po' anche uscire dalla nostra comfort zone, forse. Vabbè, cosa facciamo? Giriamo la roulette l'ultima sì, volta. Sì, mandiamo un'altra canzone. E mandiamo una canzone mentre giriamo la roulette. Allora, oddio, come si pronuncia? Allora, ascolteremo B.O.B., quindi Bob. Sicuramente Bob. Avrò sbagliato. Comunque, B.O.B., quindi Bob, sì. Bob. Di Macy Gray. Un secondo. Questa volta non è partita bene. Eccola qua. Go, baby, go. Eccoci, questa era B.O.B. di Mercy Gray. E ragazzi, top. Guardate il video su YouTube perché è pazzesco, bellissimo. Quante sì. volte avrò detto pazzesco stasera? Incredibile. Non abbastanza, probabilmente. E niente, ultimo ospite della serata. Vediamo la roulette. Chi ha scelto? Il rullo di tamburi con tante R, mi raccomando. Eccolo o eccola. La chiamata è partita. Non ancora, appena sentiremo il tutù. Eccolo, il tutù. Tanto io sto tenendo il tempo della canzone. Sì, quindi questo tappetino. Gioia! Oh, buonasera, buonasera Lorenzo, benvenuto alle ribelli. Non ci credo! E credevo fossi a casa, vaffanculo. Ma va! Sapevo e sapevamo che ormai hai finito il tuo turno e quindi dovevamo mica, chiamarti. Ho appena parcheggiato sotto casa. Sto male. Cioè, ti stavamo aspettando. Perfetto. Ma allora non posso salire perché se no in ascensore va via la comunicazione. Esatto, quindi adesso ti fai una bella passeggiata. No, in farò una bella passeggiata. In questa serata molto, molto calda, limpida, e... calda e... Ok, soleggiata, esatto. Luminosa, diciamo. Mi avete chiamato in un momento veramente molto bello comunque. Siamo contente, ci fa piacere, anche perché immagino che siamo noi il motivo di questo tuo... Io lo ripeterei che noi siamo dei raggi di sole per tutti voi. Avete ampliato il momento bello. Bello, ecco. Grazie. Bene, comunque, come hai notato, stiamo utilizzando di nuovo un po' questa skill di zona rossa di fare le chiamate a sorpresa. L'ho pensato ma non l'ho detto, perché lo sapete già. Ma sì, bisogna anche dare i meriti là dove i meriti ci sono. Però vi abbiamo sponsorizzato anche. Esatto. In questo modo vi sponsorizziamo. Giusto. Scusa, però... Comunque, Lorenzo caro, come tu ben sai, o forse non saprai, però adesso perché forse lo lavoravi. Scoprirai. La puntata di oggi era sull'erotismo, autoerotismo e sex toy. Sono stracontento che mi avete chiamato. Ottimo. Bene, ottimo. E avevamo qualche domandina. Bene, prego, Andrea. Prego. Vado. La prima domanda è: cosa pensi tu dei sex toy? Penso che sono veramente molto interessanti e soprattutto mi sono ritrovato spesso e volentieri nella situazione in cui durante l'amplesso si scoprissero le lenzuola, si cadessero dei cuscini e uscissero fuori questi giochini fantastici. Wow! Da tutto il letto, no? E ovviamente la prima reazione che ho avuto è stato giochiamo. Quindi si crea un po', si spezza quella, come posso dire, quell'uso singolare che si fa dei sex toys e diventa un gioco di coppia. Di condivisione, esattamente. Bello, e che esperienza hai avuto? Ho avuto esperienze, ovviamente, cioè, dico, dire, piacevoli, positive o... Molto piacevoli. Mi sto addentrando in quella che è la mia bisessualità. Mm-hmm. E faccio fatica a trovarmi in una situazione con degli uomini, mentre invece mi riesce più semplice trovarmi in una situazione con delle donne che utilizzano dei sex toys fallici. Ok. Quindi diciamo che per me è un oggetto molto interessante perché mi può far approcciare a quello che è poi il pene maschile, di cui io ancora non ho avuto il piacere di provare niente. Okay. Perché appunto mi sto appena addentrando in questo mondo qua. Certo. Beh, sicuramente. Mentre invece l'oggetto giocattolo è più semplice da un punto di vista. Certo, ma è proprio quello che diceva Federica, effettivamente, prima che magari ti sei perso l'intervista, lei diceva appunto che è interessante perché l'utilizzo appunto dei sex toy è proprio anche per iniziare a conoscere e a sdoganare. Abbiamo utilizzato molto questa parola oggi. Sperimentarsi e lasciare proprio via libera alla fantasia, al piacere. E anche appunto iniziare a educare noi stessi e il nostro corpo anche a delle nuove forme di piacere, insomma. Certo. Quindi hai centrato... Abbiamo fatto delle telefonate incredibili. Sì, siamo molto contente perché sei... la terza persona che chiamiamo e abbiamo avuto solamente delle risposte davvero da bacio accademico. Esatto, sì, esatto. E volevamo anche chiederti, tu possiedi dei sex toy? No, purtroppo no. Ok, ma c'è magari uno in particolare che hai in mente, che è quello che vorresti avere, sì, per il tuo piacere personale? Allora, io entro a gamba tesa perché so che c'è un collegamento con un noto negozio milanese che è Uovo in questa puntata. Che abbiamo intervistato. Esatto, l'abbiamo intervistato. Esatto. E io seguo assiduamente il loro canale perché loro se ne inventano di ogni. Ne hanno inventati alcuni che sono veramente incredibili. E sinceramente non mi dispiacerebbe, aspetta che c'è un sacco di gente qua di centro, mi sposto un po'. Non mi dispiacerebbe provare ovviamente una sorta di vagina di plastica. Ok, ok. Sì. Che ho visto nel loro store e magari un giorno mi verrà anche l'idea di comprarla. In realtà, ecco, magari su di me sono un po' bloccato perché comunque li reputo degli oggetti. Soprattutto se, per quanto riguarda il fallo maschile, sono un po' più curioso. Proprio perché, secondo me, è un ponte per riuscire a capire se può piacermi, se può non piacermi, se mi ci trovo. Mentre invece, per quanto riguarda i sex toys per gli uomini, su quelli sono un po' restio, sono sincero, perché preferisco i corpi, banalmente. O la mia mano, detta proprio in parole povere. E quindi non saprei come, dove andare a parare, cosa prendere, cosa recuperare. Siamo 2-2, le palle al centro per preferire la pelle. Però chiaramente la pelle, cioè è un discorso che facevamo anche prima con Federica e comunque anche con la lettura di Andrea, è ovvio che sono tutti sono piaceri diversi quelli che ti possono dare contatto fisico, quindi la presenza di un altro corpo, e il piacere che invece ti può dare un oggetto, cioè sono proprio piaceri diversi e sensazioni diverse, e sensazioni comunque, diverse. Tu puoi controllare anche, cioè tu da solo, se tu pratichi appunto dell'autoerotismo, puoi concentrarti su una sensazione piuttosto che un'altra e non hai un controllo esterno, cioè tu sei tu il controllore del, sì, tuo corpo, bisogna, no? Dire che forse e quindi puoi sperimentare in questo modo, sì, più che altro magari non controllo ma usare magari più padroni, sì, di sì, se quello, stessi, certo, del proprio corpo, del quindi anche della conoscenza del proprio piacere, quindi là dove si sta stimolando il piacere massimo, il concentrarsi su quello. Esatto. Ed è chiaramente comunque anche con un oggetto penso che ci sia una comunicazione continua. Chiaramente l'oggetto lo puoi maneggiare tu, ma comunque devi comunicare con quello in un certo senso, perché magari aumenti l'intensità, la diminuisci, lo muovi, lo sposti, certo, eccetera, e lo stesso lo devi comunicare poi al partner quando quindi c'è la presenza di un corpo, no? Per cui sicuramente sono comunicazioni diverse, però forse appunto parlerei più di questo, no? Che di un controllo di un oggetto o altro simile. No, insomma, il controllo era proprio sul fatto di dire c'è qualcun altro che, cioè, se io prima scopro me stessa e so cosa mi piace, so anche aiutare l'altra persona a darmi, certo, maggior, certo, piacere, certo, no? Vero, vero. Questo volevo dire. E niente, hai già risposto che hai già utilizzato altri i sex toy in coppia, giusto? Sì. Giustissimo. Che altra domanda possiamo fargli? Vabbè, allora, io il regalo di Natale te l'ho già fatto, Lore. Purtroppo. Oh yeah! Quindi, ah no, nel senso, pensavo avessi azzeccato. E quindi dovrei aspettare il prossimo Natale. Ecco, ma tu, hai mai regalato un sex toy? No. No? Bella, bella, bella domanda, purtroppo la risposta è no. Ma perché nelle avventure di coppia che ho avuto, le persone che sono state con me non ne facevano uso. E invece magari le persone che ho incontrato che ne facevano uso erano rapporti occasionali e non ci sono stati motivi di fare regali. Vabbè, ma tu c'hai una coinquilina fantastica, meravigliosa. Ma esatto. Ce n'è uno che hanno fatto uscire quei pazzi uovo ultimamente, che praticamente è piatto e puoi metterlo sulla sedia e poi lo puoi, ho capito, costruire. Top. Diventa, abbiamo già capito un'occhiata ci ha servito. C'è anche da dire questa cosa che forse è un po' sessista, ma questo me lo direte voi, molto spesso io fantastico sul mio essere donna, mm-hmm, e ammetto che se fossi nato donna sarei pieno di sex toys. Ammetto, sì, questa cosa, sì, qua. Sì, fai bene ad ammetterla. Esatto. Va bene, possiamo comunque chiacchierare e parlare di io questo. Io, guarda, non vedevo l'ora di fare una passeggiata dopo lavoro prima di entrare in casa a rilassarmi. E congelare di... Va bene, allora ti lasciamo al calduccio. Sono emozionatissimo che mi avete chiamato, grazie. Lo so, lo sapevamo di farti un piacere, lo è stato anche per noi. Grazie mille. Grazie, Lore. Buona ciao. Radio. Ci vediamo dopo, allora. Ciao. Vabbè, fortuna che abbiamo avuto questa sera. Vi assicuriamo che c'è stata davvero la roulette. A parte forse... Più o meno. A parte una persona, però effettivamente le abbiamo pescate a caso. Sì. Siamo fortunate di essere circondate comunque di persone anche intelligenti, nel senso che si sperimentano, si mettono in gioco da tutti i punti di vista e si ha sempre modo di dialogare e confrontarsi, certo, in maniera tranquilla per crescere insieme. Ma anche perché effettivamente, ammettiamolo, più si è soddisfatti e si prova piacere, più si è tranquilli e questi tabù vanno a perdersi e quindi diventa molto più facile. Quindi vi ringraziamo tutti. Cosa facciamo, Gioia? Adesso ascolteremo le ultime canzoni. E ricordiamo i nostri canali. Giusto. Allora, ricordiamo. Vai. Vado io? Vai. Vai tu. Vado vai io. Tu. Vai tu. Tipo, no, attacca tu. No. Che carine che siamo. Va bene. Allora, ricordiamo il nostro canale Telegram. Potete scriverci a @radiozam_chat oppure sulla chat Instagram, e il canale Instagram è le_ribelli_zam. Poi c'è il canale sempre Instagram della radio, che è Radio Zammi Sud. E poi ovviamente per trovare i nostri podcast potete trovarli sia sul nostro sito, dove potete sentire anche sul sito di Zam. Dove potete anche sentire la radio in diretta, che è www.zam-milano.it, oppure sulla pagina di Zam di Archive, che è radioz-m. Perfetto, quindi avete tutti gli strumenti possibili per riascoltare non solo questo podcast, ma anche tutti gli altri. E quindi con questo speriamo di avervi aver ampliato un po' il vostro mondo della fantasia. Speriamo di spingervi ad avere una piacevole serata con voi stessi o con qualcun altro questa sera. E anche di, insomma, quando vi relazionate, vi approcciate ai vostri amici, amiche, parenti, familiari, insomma, con qualsiasi persona, e scappasse questo argomento, non abbiate paura. Anzi, cercate di spronare le persone ad avere un atteggiamento sex positive, e quindi non repressivo e chiuso, e chiamiamolo anche bigotto, ma aperto, libero e sicuramente aperto, esatto, il confronto. Ok, e Andrea, vuoi annunciare tu la canzone? Allora, ci salutiamo per il momento con Glory Box dei Remastered. No, Glory Box... Oh, scusate, Glory Box Portishead. Oddio. E scusate, ma secondo me è la nostra Lady J che ci fa i dispetti, gli scherzetti. No, è che io poi sono un po' di sbieco, non è che bevete molto bene. Hai ragione. Devo dire la verità, cioè, scusateci. Va bene. Allora, ecco a voi la canzone. I Perché sono pazzo! tutto un faccio muri so pazze, so pazze. E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello? E non sono meno amato, sono pure diplomato, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato, io son pazza, io son pazza. E non c'è scassato qua? Sì, era il terzo, ma uguale. Sì!